Mix 24. Dentro la notizia. Di chi è fatta la tua famiglia? Da Giuseppina, Raffaella, io e un cagnolino. La mia famiglia è composta da due mamme, Elena e Giuliana, un gemello Joshua e un fratello più grande che si chiama Federico, ha 10 anni. Quanti papà c'hai tu? Due. Ho due mamme e 3 fratelli. Due gemelli e uno piccolo. Questa cosa che io sto insieme a Marina, a te ti imbarazza ancora? Sarà pure normale che uno si stranisce perché il padre si mette con una ragazzina e la madre si mette con una donna. Sono il detective Laura Lester, lavoro per il dipartimento di polizia da 23 anni. Mi hanno appena diagnosticato un tumore ai polmoni al 4° stadio. Quando i miei colleghi eterosessuali muoiono, la pensione viene trasferita al coniuge. Ma poiché la mia compagna è donna, io non ho questo diritto. In tutta la mia carriera non ho mai chiesto favoritismi. Quello che sto chiedendo è uguaglianza. Noi chiediamo a tutte le forze politiche che credono in questa necessità, in questa opportunità anche di dare una disciplina alle unioni civili, ad un paese che tra i paesi europei è rimasto ormai al palo, fermo al palo, e lo faremo chiedendolo sicuramente alla nostra maggioranza, e se non c'è la possibilità da parte di NCD di votarle, beh, ce ne faremo una ragione, ci saranno altre forze politiche pronte a farlo. Sì al rafforzamento dei diritti patrimoniali di ciascun singolo soggetto della coppia, no alla equiparazione del matrimonio e no alla adottabilità dei figli da parte delle coppie dello stesso sesso. Riteniamo che sia un grande errore perché ogni bambino ha diritto ad avere un papà e una mamma, è molto semplice. Ecco, Monica Cirinnà, senatrice del PD, il suo nome oramai è indissolubilmente legato al disegno di legge sull'unione civile. Buongiorno, senatrice Cirinnà. Lei ha presentato la legge che è diventata il pomo della discordia all'interno della maggioranza. Riuscirà a ripartire, secondo lei, questa legge? A ripartire, riuscirà ad essere approvata, è uno dei punti fondanti del programma del PD e di questa legislatura. C'è una volontà politica unanime nel Partito Democratico. Lei ha sentito Alfano dice che la legge di stabilità è scritta con la mano destra, cioè da lui. Sulle unioni civili l'ha sentito, ha minacciato praticamente la crisi di governo. Ma comanda lui? Ma io direi proprio di no. Alfano ha detto 2 inesattezze che possono confondere chi ci ascolta. Alfano parla di diritti individuali delle persone, e questo per noi non può essere. Noi vogliamo dare diritti alle coppie composte da 2 uomini e da 2 donne, e poi parla in modo generico di adozione. Ecco, ma nella mia legge l'adozione non è prevista, tranne quella interna alla coppia. Senta, ma la rottura con l'NCD era nell'aria per lei? Direi proprio di no, la rottura non se l'aspettava. Ma sapevamo che loro erano contrari a questo argomento, ma loro stessi per primi, ricordo Sacconi già qualche mese fa, prima dell'estate, ha detto: non essendo un tema di governo, il governo non avrà contraccolpi. Senta, onorevole Cirinnà, comunque il punto di crisi, che è di crisi non solo coi cattolici, è lo stepchild adoption. Ecco, ci spiega in 2 parole semplici in cosa consiste? Estensione della responsabilità genitoriale sul figlio del partner. Vuol dire che se lei si mette con un uomo e quest'uomo ha un figlio, lei può diventare genitore adottante speciale di questo bambino. L'adozione speciale è già prevista nel nostro codice. E questo è il punto di crisi. Questo è il punto di crisi più significativo. Intanto però anche il ministro Boschi, che la sosteneva, sembra aver cambiato idea, o perlomeno modificato la posizione. Senta cosa diceva il 17 ottobre alla festa dell'Italia dei Valori. Abbiamo sempre detto però che il tema delle unioni civili è un tema irrinunciabile per il Partito Democratico, che quindi non fa parte, lo sappiamo, del programma di governo, perché è un tema che non è condiviso dal nuovo centrodestra, per cui se il nuovo centrodestra non appoggerà la legge sulle unioni civili, noi faremo accordi e alleanze con le altre forze politiche presenti in Parlamento per riuscire però a portare a casa questa legge. Da solo il PD non basta, è una questione di calcoli, di numeri, in Senato da soli non ce la facciamo. Questo era il 17 ottobre. Senta invece cosa ha detto il giorno dopo, domenica scorsa, all'Arena di Giletti. Come in tutte le leggi importanti, dobbiamo cercare di trovare un consenso ampio in Parlamento, cominciando dalla maggioranza, trovando un accordo nella maggioranza, e su tanti punti l'accordo c'è. Alfano ci sono, dice però, non ci sto. Ci sono alcuni punti su cui il dibattito è molto acceso, penso per esempio all'adozione all'interno della coppia del figlio e del partner, no? Sì. Ma sono opinioni diverse. Lei è favorevole su io questo. Personalmente sono favorevole, però so che all'interno dei partiti, nel mio partito, nel NCD, negli altri partiti, anche nel 5 Stelle, ci sono opinioni molto diverse, trasversali. Questo è uno di quei temi su cui probabilmente, per esempio, il PD lascerà libertà di coscienza. Ecco, un bel cambio di linea quello della Boschi sostanzialmente. Lei si è sentita abbandonata? Io non mi sento abbandonata dal primo giorno in cui mi occupo di questo argomento, perché questa è la prima legge importante di iniziativa parlamentare che arriva in questa legislatura. Però c'è stato un bel cambio di linea, ecco, Renzi ha rivisto la sua posizione, si dice per via di un sondaggio riservato, così ha scritto Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, sì, domenica. Io le ho risposto che se i sondaggi esistono vanno mostrati. Ecco, ma lei non ne sapeva niente di questo sondaggio? Ma secondo me non esiste questo sondaggio, perché se no l'avrebbero mostrato. Ma in genere la Meli scrive informata, diciamo. Questa è una questione che riguarda lei. Io dico che moltissimi sondaggi danno proprio semaforo verde su stepchild adoption, proprio perché non è un'adozione legittimante, ma è solo un modo per tutelare questi bambini che già esistono. La domanda è un'altra: questi, ecco, bambini esistono, queste famiglie esistono, che cosa ne facciamo se non gli diamo tutela? Senta, ma lei si aspettava che due omosessuali dichiarati come Dolce e Gabbana facessero una campagna intitolata I Love You Mamma, che celebra la famiglia tradizionale? Se l'aspettava? Io non credo che celebri la famiglia tradizionale. Ma io insomma, credo che un po' sia. Beh, ho capito, esistono tantissime situazioni nelle quali la mamma comunque non c'è, penso per esempio a divorziati che crescono figli da soli. No, ma io le ho solo chiesto se si aspettava da Dolce Gabbana una campagna del genere. Io non li conosco bene, probabilmente non me l'aspettavo, visto anche questa cosa sgradevole nei confronti di Elton John, credo, ecco, ciò che separa i movimenti d'opinione faccia male. Senta, ma con il voto segreto lei pensa che 5 Stelle e SEL potranno venire in suo aiuto? La tentazione di lavorare contro Renzi e contro il Partito Democratico delle volte è molto forte. Penso però che quando si parla di diritti delle persone, di affetti e di famiglia, l'ideologia si possa mettere da parte, quindi si potrà dare tutela a queste famiglie. Ecco, sul voto segreto, Alfano ieri ha detto: ne vedremo delle belle, ma saranno belle per lei o per lui? Ma nessuno di noi ha la palla di vetro per poter dare il risultato anticipato. Io dico che a me il voto segreto non piace, ma in nessun argomento. Io penso che se tu sei un parlamentare e rappresenti la tua gente, ci devi mettere il tuo nome e la tua faccia su quello che fai. Senta, per chiudere, mi dice cosa risponde a questa obiezione che le aveva fatto la Binetti su Sky? Ad altri tipi di unioni, altri tipi di diritti. Ma sono tutti diritti assolutamente legittimi, salvo il passaggio in cui dice i doveri delle coppie sposate, e quello va tolto assolutamente. Io voglio escludere che lei consideri prima tre doveri, li ha scritti anche lei, che sono, non so, per esempio, il dovere della coabitazione, tant'è vero che lei poi dice il subentro nella coppia. Quello che non può mettere lei, non può mettere, dire non è un matrimonio e poi mi dice i doveri sono quelli del matrimonio. Ecco, cosa risponde rapidamente? Ho già risposto alla Binetti che lei mi dovrebbe indicare quali doveri sottrarre in modo reciproco tra coppie di persone dello stesso sesso. Ma insomma, se sottraggono i doveri, sì, non si ottiene una relazione stabile. Ma insomma, è un matrimonio o non è un matrimonio? Ma non è un matrimonio, e dico purtroppo, perché io sono favorevole come la Boschi, certo, come la Terracchiani, al matrimonio egualitario. Guardi, questa è una legge retriva, finché non arriveremo al matrimonio egualitario noi saremo dei retrivi in questo paese. Senta, però ma dico che non è un matrimonio perché si fonda sull'articolo 2 della Costituzione e non sul 29. Ecco, ma a quanto dà l'approvazione della sua legge in questa legislatura? Se dovesse fare una scommessa. Ma al 98%. Al 98%? E in che tempi, secondo lei? Secondo me all'inizio del nuovo anno, gennaio, febbraio, almeno l'uscita dal Senato. Senta, comunque sia, un'ultimissima cosa, specifica formazione sociale, le sembra una certificazione felice per le coppie omosessuali? A me non è piaciuta, non era nel mio testo originario, sapete che è stata introdotta con un emendamento, ma non è altro che la definizione data dalla sentenza 138-2010 della Corte Costituzionale, che proprio nel recinto dell'articolo 2 ci diceva di muoverci. Grazie, onorevole Cirinna. 800-24-0024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Quante cose dobbiamo ancora rinunciare? A quante possibilità? A quante prospettive? A quanti sogni? Noi, ragazzi della seconda generazione, italiani di seconda categoria, non italiani. Proposta di legge numero 9 ed altre, modifiche alla legge 5 febbraio 1992, numero 91, in materia di cittadinanza. Favorevoli 310, contrari 66, la Camera approva. In Italia già esisteva lo ius soli, se uno nasce in Italia all'età di 18 anni può fare la domanda di cittadinanza e diventare cittadino. Ho festeggiato, sono felice, orgogliosa. L'Italia ha fatto una scelta molto giusta, sta investendo sul proprio futuro. L'Italia ha capito che in questo momento noi dobbiamo andare verso una società più inclusiva. La Lega su questo provvedimento esprime un fortissimo no, e lo ripetiamo, perché la cittadinanza non è un diritto. Ecco, un altro tema che sta infiammando il dibattito, che riguarda la trasformazione della società e del costume del paese, è proprio questo, quello dello ius soli, ovvero la cittadinanza per gli stranieri. La legge è passata alla Camera, ora sarà discussa al Senato. Ecco Mario, ma in che cosa consiste esattamente, in due parole, questa legge? In due parole, i bambini che nascono, i nuovi nati da genitori stranieri in Italia diventano cittadini. Ecco, ma quali sono i numeri? Cioè quanti stranieri diventerebbero cittadini in Italia? Guarda, i nati in Italia sono 1 milione, 650.000 circa sono però quelli nati da genitori stranieri che hanno quelle caratteristiche per poter essere, diciamo, poi per diventare cittadini italiani. Ti faccio un esempio, è un fenomeno concentrato nelle metropoli. A Milano è un bambino su 4, per esempio. In tutta Italia invece la statistica è 1 su 10. E sono numeri che sembrano importanti, e lo sono anche, per carità, ma in realtà sono cittadini italiani. Sono cittadini. Ecco Pietrangelo, sì, cioè, tu credi che si possa parlare di ius soli come di un fenomeno legato alla modernità? No. Perché? Guarda, se faccio riferimento alla memoria materiale, proprio in una trasmissione televisiva tua, mi ricordo di aver sentito chiaramente l'inno imperiale austro-ungarico cantato in italiano, Salvi Dio l'austriaco regno. La scena, mi ricordo, il paesaggio era quello delle Dolomiti. Sta a significare che una autorità sovrana tradizionale, a maggior ragione tradizionale, parte dal principio di accogliere i popoli e le genti. E l'esempio che fa scuola è quello dell'impero romano. Romano, certo, naturalmente. È un'invenzione, diciamo, tutta borghese, anzi piccolo borghese, che si riconduce al nazionalismo. Concetto ben diverso dal patriottismo. Il nazionalismo è una misura piccola, micragnosa, da cortile, che nulla ha a che fare con la patria. Ecco Mario, qual è la situazione sulla cittadinanza per gli stranieri negli altri paesi europei? Ma tutti hanno procedure molto più semplici, diciamo usano un doppio sistema tra lo ius soli e lo ius sanguinis, però sta di fatto che insomma, le procedure sono molto più svelte e soprattutto sono stati provvedimenti presi nel passato. Faccio solo l'esempio della Germania per essere chiari. In Germania ci sono 7 milioni di stranieri. Nel 2013 16,5 milioni di persone avevano già alle spalle una storia familiare di immigrazione. Nello stesso anno la Germania ha toccato il record assoluto di immigrazione negli ultimi 20 anni, oltre 1 milione 200 mila persone. È il dato più alto dal 93. I bambini stranieri nati in Germania possono scegliere la cittadinanza tedesca, cosa quelli che, no, Italia, cosa che ancora non si può fare in Italia finché la legge non passa definitivamente. Tra il 2000 e il 2012 sono nati 9 milioni di bambini in Germania, 460.000 hanno scelto la cittadinanza tedesca. Cioè, per dire, no, sì, appunto, sì, che si diceva la Merkel, no, sì, non è così, i numeri parlano da soli. Parlano da soli. A destra però pensano che questa legge, l'abbiamo sentito all'inizio, non sia quello che serve al nostro paese. Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega alla Camera. Ecco, onorevole Fedriga, voi avete annunciato addirittura un referendum sulla cittadinanza. Perché? Perché questa norma è stata fatta contro la volontà dei cittadini, da un governo non eletto, ed è una norma che non serve all'integrazione dell'immigrato straniero, perché la cittadinanza non è un modo per integrare, certificazione di un'integrazione avvenuta. Ecco, ma lei crede che nel paese ci sia una maggioranza che non vuole dare la cittadinanza ai bambini nati in Italia? Sono assolutamente convinto, perché i bambini nati o anche che arrivano successivamente in Italia non è precluso alcun diritto: il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, il diritto ad avere l'assistenza sociale necessaria. E perché non possono essere italiani? Semplicemente perché, come dicevo, la cittadinanza è la certificazione dell'integrazione. Un bambino che cresce da persone appena arrivati sul territorio nazionale non conosce lingua, cultura, tradizioni, non è una persona. Beh, ma se è nato in Italia, se è nato in Italia, va a scuola in Italia. Se è nato in Italia da genitori non italiani e che nella migliore delle ipotesi soltanto uno dei due è presente da 5 anni, non credo che ovviamente sia un cittadino che possa considerarsi italiano. Senta, e però adesso la norma in vigore permette che a 18 anni gli possa richiedere tranquillamente la cittadinanza italiana. Senta, onorevole Federica, d'accordo, però i bambini degli stranieri frequentano le nostre scuole. Non è un controsenso impedire di essere cittadini dello Stato che li educa? Ma non credo che i bambini che vadano nelle nostre scuole non dormano la notte pensando di non avere il passaporto. No, ma questo italiano non è un problema, non è messa così. Il problema sia dare i servizi ai bambini, e quello tutti siamo d'accordo. Poi il bambino, su propria libera scelta, volontà e anche capacità di integrarsi, a 18 anni già ora può chiedere di diventare cittadino italiano. Senta, non vedo perché fare queste forzature. Lei la considera una forzatura, io penso che non sia una forzatura, ma questo è lecito. Voi governate in Lombardia e in Veneto, regioni dove centinaia di migliaia di immigrati lavorano regolarmente, sono integrati, hanno tirato sulla famiglia. Non è che a Roma dite una cosa, poi invece dove governate a livello locale ne fate un'altra? No, ma il nostro scopo non è non integrare, anzi l'esatto opposto, è integrare. Il problema è dare la cittadinanza a integrazione avvenuta. E questa è la vera differenza e la concezione. Oltretutto c'è un altro problema. Voi pensate al cittadino straniero che perde il diritto di stare sul territorio nazionale da normativa vigente, ed è giustamente deve allontanarsi, col bambino cittadino italiano. Significa che non allontaneremo neanche chi perde il diritto di rimanere sul territorio nazionale e non è cittadino italiano. Senta, però gli imprenditori stranieri che producono lavoro, pagano le tasse, perché non dovrebbero avere tutti i diritti politici? Ma la cittadinanza non si compra con i soldi. Ma non è un la problema di comprare con i soldi, un problema è che quello. Uno se non la merita realmente. Non è che se uno paga tante tasse allora è cittadino, esattamente come non avviene in moltissimi altri paesi al mondo. E oltretutto abbiamo visto che esperimenti del genere, della cittadinanza facile, sono stati fallimentari proprio dal punto di vista dell'integrazione. Pensiamo alle periferie parigine, dove c'è un subbuglio costante che non si è mai risolto negli anni, per non passare. Ma ai quello perché estremi. C'è povertà, è diverso. Senta, vuol dire che non c'è integrazione, vuol dire che non c'è integrazione. Perché se tutto dove ci sono immigrati, se tutto dove ci sono se tutto dove ci sono movimenti sociali vuol dire che non c'è integrazione, ogni manifestazione sindacale è praticamente la misura della non integrazione. Mi scusi, però lei conosce meglio di me le periferie parigine. Certo. sono dei ghetti, non sono dove c'è la povertà in generale, ma c'è una povertà data da popolazione straniera che evidentemente non è stata integrata, per colpa sicuramente del governo nazionale, anche per colpa probabilmente di una cultura che non è stata in grado di integrarsi. O affrontiamo questo problema vedendo la realtà dei fatti, oppure possiamo facilmente fare i buonisti. Ma non è un problema cittadini. Di buonismo, no, io non credo che sia un problema di buonismo, penso che il problema delle banlieue parigine è un problema reale di povertà, non di integrazione intesa come nazionalità. Integrazione nel senso integrati nella vita che produce ricchezza e quindi produce libertà, penso che però sia così. Però lei porrà il problema perché in quelle aree il 99% della popolazione è straniera e non parigina o non francese. Uno si pone il problema perché ciò chi avviene. Chi tardi arriva male alloggia in genere, purtroppo capita anche questo. In Italia non è più così, in Italia sta venendo viceversa. Senta, le faccio all'hotel e chi invece sta per strada. Senta, le faccio un'ultima cosa. Gli imprenditori del nord, quelli che assumono lavoratori stranieri e vedono le famiglie, i bambini, la loro vita pienamente italiana. Lei pensa davvero che seguiranno la vostra linea rispetto al referendum? Ma non c'è dubbio, perché ripeto, non è un problema di non voler integrare, è un problema di semplicemente di dare la cittadinanza con una persona integrata. Nessuno vuole togliere i diritti a nessuno. E la misura, diciamo, dell'integrazione qual è per lei? La misura di quando è che uno è integrato? Mi scusi, c'è una legge attuale. No, lo chiedo a lei. Mille limiti. Sì, sì, sto dicendo, c'è una legge attuale che può avere mille limiti, che però penso abbia funzionato, ovvero quella dei 10 anni e della volontà del cittadino di richiedere la cittadinanza. In questo caso la cittadinanza, per chi nasce o anche per chi arriva prima dei 12 anni, è scelta da una persona terza rispetto al diretto interessato. Perché? Perché questo dobbiamo porci un serio problema, perché a un bambino viene imposta la cittadinanza. Ma imposta, insomma, mi sembra che imposta sia una cosa. Il posto suo. Decide tante cose il genitore per i figli. Capito? E perché, guardi, ho sentito. Lei ha dei figli? Io ho dei figli. Dove li manda a scuola? E deve ancora a un anno e mezzo. Ah, va bene. Va bene. Allora aspettiamo che cresca e che scelga la scuola. Va bene. Ma è diverso la D'accordo. Della scuola, penso anche per lei. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Ecco, Mario, secondo te il paese come reagirà agli eventuali referendum, se ci fossero intanto tantissime SMS su questi temi, insomma, con molta attenzione, un leghista che parla di cittadinanza italiana, ma non sono padani, si chiede Marco, cioè, quale cittadinanza? Vabbè, insomma, che dici tu dell'eventuale referendum? Io penso questo, c'è un precedente che è importante, che è quello sul divorzio, e nonostante il paese abbia la sua, avesse e ha la sua matrice cattolica, alla fine sappiamo tutti com'è andata. Quello sulla cittadinanza, secondo me, hai fatto la domanda giusta prima sugli imprenditori lombardi eccetera a Fedriga, cioè poi ci sono gli usi e costumi che fanno le opinioni vere, quelle che contano. Secondo me sono due referendum che passano senza problemi se si dovessero fare. Pensi che alla fine, sulle unioni civili dipende da come fanno il capitolo della riforma adesso. Molto. Esatto, quello potrebbe cambiare. Senti, però... Petrangelo, tu cosa pensi di questo referendum sullo ius soli? Sullo ius soli, io penso che, ecco, il lupo della mala coscienza come opera pensa, in realtà, perché viene montata questa polemica? Sì. Giusto per alimentare l'islamofobia, la questione è tutta lì, solo per questo, è solo per lanciare una nuova guerra culturale, e speriamo che sia soltanto guerra culturale. A questo proposito, siccome non so trovare in me le parole, mi affido a una canzone di Checco Zalone. Io pugliese di madre tarantina, lei francese di madre bina, sta con me, che male c'è? Piccola burchina mia, io voglio la monogamia, e non le voglio quelle altre tre, io sposo solo te. Non è uno scontro di A destra però c'è chi ha detto sì invece alla nuova legge sulla cittadinanza. Certo. L'onorevole Renata Polverini, il suo gruppo Forza Italia, ha detto no alla nuova legge. Lei invece ha votato sì in dissenso. Perché? Io ho votato sì perché credo sia il momento che questo paese dia una risposta matura ai tanti ragazzi che sono nati in Italia da genitori stranieri che comunque hanno deciso di rimanere nel nostro paese. Su questo avevo anche presentato nel 2013, appena arrivata in Parlamento, una proposta di legge. E quindi esattamente lei cosa vorrebbe che capitasse? Ma io vorrei che questo paese diventasse più civile, che si rendesse conto che ci sono tanti ragazzi che parlano i nostri dialetti, che vanno a scuola con i nostri figli, che se ci incontrano... Insomma, che chi nasce qui sia italiano. Sì, ecco. Direi di sì. Noi siamo l'Italia e possiamo permettercelo, esatto. Penso. Ecco, l'opposizione però invece ha deciso di raccogliere firme per un referendum. Lei non lo firmerà, ovviamente. Assolutamente no. Io ho fatto un brevissimo intervento in dissenso dal gruppo, indicando una cosa in cui credo e per la quale ho fatto anche tante battaglie nella mia esperienza precedente di sindacalista e anche di presidente della regione. Certo. Ho sostenuto questi ragazzi. E quindi è una scelta che potrebbe portarla a uscire anche dal partito? Guarda, in questo momento non, da questo punto di vista, diciamo, non ho nemmeno pensato a un'ipotesi del genere. Non ha del pensato resto... Ma è possibile? Ma guardi, io... No, sa perché glielo chiedo? Lo dico perché glielo chiedo. Perché il suo partito, Forza Italia, è sempre più vicino a un'alleanza futura con la Lega. Lei mi ha rubato le parole di bocca, come si dice. Stavo dicendo questo. Io non condivido questo schiacciamento sulle posizioni leghiste, che sicuramente parlano alla pancia di molti italiani che sono in difficoltà. Io però penso che un partito come Forza Italia, che ha governato tanti anni, deve trovare delle risposte da dare agli italiani e non fare confusione, per esempio, tra l'immigrazione e la delinquenza. E credo che... Rifaccio la domanda di prima, che mi sembra ancora più pertinente. Ho l'impressione che su questo punto potrebbe esserci una rottura. Beh, su questo punto sicuramente c'è stata. Una rottura che porta delle conseguenze definitive. Vedremo, mai dire mai a nulla. Senta, le faccio un'ultimissima domanda che riguarda la legge sull'unione civile. Lei è d'accordo sulla proposta di legge? Guardi, sulla step seed adoption? Proposta Carfagna, e quindi anche su questo ho una posizione un po' più aperta di tanti del mio partito. Dopodiché parlare ma di ma la legge Cirinnà le piace o no? Diciamo che la legge Cirinnà è già un compromesso rispetto a quello che evidentemente la relatrice, la proponente aveva in mente. Sicuramente sulla questione delle adozioni dobbiamo riflettere ancora. So che la prossima settimana avremo una riunione di gruppo. Vediamo lì che cosa riusciremo ad elaborare. Già è importante che ne parliamo. Beh, no? Certo, perché almeno quello dice. Sulla mia proposta non se ne è nemmeno parlato al gruppo. Ecco Mario, ma anche a destra abbiamo sentito c'è chi è favorevole a queste leggi. Ancora una destra allora? Guarda, ti dirò una cosa fulminante. Era più avanti la DC rispetto, diciamo, alla maggioranza della destra. La posizione della Polverini è giusta, però la verità è che manca incredibilmente una cultura di destra. Io non ho parole. Pietrangelo, la cultura appunto di destra in questo campo sembra proprio non esserci. Mi pare che neanche più Dio, patria e famiglia. Mi sembra che ci sia un vuoto di programma, di proposta e un no a tutto. Oppure c'è altro? No, senza re e senza regno. Perché la destra attualmente ha una formidabile macchina pop, che è Matteo Salvini, poi un'amministrazione di slogan diffuse nel sentimento, e il no a tutto è il bar sport, che è già un passo indietro rispetto al populismo, perché la destra è sotto scacco. Matteo Renzi. Stavo dicendo Ricci, ho un lapsus genetico. Allora, Matteo Renzi fa quello che non ha fatto Silvio Berlusconi. Dall'altro lato Grillo si è impossessato della pancia, la pancia cosiddetta del paese. La destra è sotto scacco. Quando capirà di riproporsi secondo lo schema della tradizione, farà paradossalmente un passo avanti. Vabbè, insomma, le posizioni sono molto articolate, l'abbiamo sentito, ne abbiamo parlato. Tra poco ti chiederò una canzone per chiudere questo discorso. Prima però devo fare una rettifica. Durante il faccia a faccia di ieri con il ministro Lorenzin, nel file che è andato in onda sui test pre-vaccini, la voce dell'intervistato non era quella del dottor Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ma del dottor Eugenio Serravalle, presidente dell'ASSIS, l'Associazione di Studio e Informazione sulla Salute. Ecco, questa era una precisazione doverosa perché abbiamo fatto un errore. Che canzone per ma il nostro tema? Dibattito di stamattina è stato molto bello, due temi incredibili, e mi viene in mente che bisogna curare il mondo. Heal the world. There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. State ascoltando un programma offerto da Foto Industria Bologna 2015, la biennale dedicata alla fotografia industriale. Mix 24 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666. Molte discussioni sul tema della cittadinanza. Vincenzo da Bari dice: dobbiamo uscire da questi limiti di territorio, siamo cittadini di uno stesso mondo. Beh, questo è auspicabile, ma è ancora lontano. Aurelio da Roma. Salve a tutti. Buongiorno. Grazie per avermi concesso l'intervento. Dica. Faccio una premessa. Io sono felicemente sposato con una cittadina rumena. Bene, beato lei. Mia moglie ha una splendida bambina, ragazza ormai 12 anni, naturalmente cittadina rumena, ed è giusto che lei a 18 anni abbia la cittadinanza italiana e la scelta di diventare cittadina italiana. Lei si considera comunque italiana, attenzione. E allora lei cosa voleva? La testimonianza per dire cosa? Che non c'è bisogno della legge, questo vuol dire? No, è che i nostri politici cercano tutto per distogliere l'attenzione su quelli che sono i reali problemi del paese. Cioè, questa ragazza a 18 anni sarà italiana, se vorrà esserlo, sceglierà con la legge attuale. Va bene. Sicuramente sceglierà. Va bene. Il problema, l'ultima cosa, sì. Il problema è che distolgono l'attenzione su quello che è il problema del paese, loro. Il nostro problema sono solamente loro. Va bene, d'accordo, questo lo pensano in tanti. Allora, Pietrangelo, la tua canzone di oggi. Sentirsi intorno quel profumo di come di fragola e di mandorle, mentre cammini sulle nuvole in un bel cielo color ruggine, qualcuno cerca di confondere. E allora per la beatitudine di quelli che hanno terra da calpestare, quella che si può poi avere proprio nel contatto della passeggiata, perché il camminare tra distanze che fanno paesaggio è sempre festa, specialmente nelle briciole dell'aurora. E così, tra ranuncoli improvvisi, tra brine e sfilacci di nuvole, si fa il giorno e si fa il cuore. E oggi io la dedica, la voglio fare personalmente io, e la dedica la faccio, e il brano è A innamorarsi sai, la faccio al poeta, all'artista, al genio che l'ha composta e che la canta. E quindi dedico la sua canzone a Giorgio Conte, perché i ranuncoli sono filastrocche e a innamorarsi sai ci vuole sempre verso per passeggiare e musica da ascoltare. Ma che è primavera? Non è primavera, è innamorato. Mario, siamo alla tua bolla cattiva, sì. Sentiamo se sei cattivo. No, vabbè, qua non c'è neanche da essere cattivi. Parla da sola. Allora, io qua so che tocco un tema in cui Pietrangelo poi si inserirà. Insomma, è stata rivelata l'abilità amministrativa di Marino Giovanni. Dice, non sono mie le ricevute firmate sulle cene. E le firme sono false. Allora, scusate, abbiate pazienza, ma se uno non controlla neanche le ricevute dei pasti che consuma... Beh, se sono false, sono a sua insaputa, no? Come fa a gestire la capitale d'Italia? Questo è il punto fondamentale. Dirò di più, ma non è la prova, in fondo, che la società civile da cui proveniva Marino, il mito della società civile, è fallito? E aggiungo, Pietrangelo, seguimi, è importante. Ma non sarà il caso di sfatare un altro mito, e cioè di provare all'amministrazione a questo punto anche i grillini, così ci leviamo il pensiero? Pietrangelo l'ha scritto l'altro giorno, domenica. Io quasi lo penso. Anche tu lo pensi? Sì, lo penso. Oddio, siamo tutti e tre d'accordo su questo. Non lo so, però io penso. Scusate, dopo aver provato la società civile e abbiamo chiuso il discorso, adesso proviamo invece il vaffa, che è l'ideologia del vaffa, la prova. E lo chiudiamo. Salamino. Mediatori più che moderati, tutti primi al traguardo del cuore di Matteo Renzi. Ha ragione Francesco Boccia, che è deputato del PD, presidente della commissione bilancio, quando dice che più che moderati sono mediatori quelli che da destra corrono oggi tra le braccia del premier, che risulta essere però, lo dico sottovoce, erede più di Togliatti che di Fanfani a questo punto. Perché sta facendo l'amnistia per tutti, se li carica, si carica la qualunque. Detto ciò, si vedrà alla fine. Ha ragione Giovanni, si vedrà alla fine. Usano il taxi. Guarda, vi faccio vedere fotografie di quelli del PD, nuovi del PD in Sicilia, che vi spaventate. Detto ciò, tutto cominciò con la difficoltà di mettere la destra nella sinistra. Perché fu difficile mettere la destra nella sinistra? Perché la sinistra aveva una sua incapibilità, non si capisce. L'incapibilità. Cioè l'incapacità di essere capibili. Cioè ti spiego, io, ma non solo io, tutti i popoli della libertà, quando la gente di sinistra parlano, non è che noi non siamo d'accordo, non ci capiamo un cazzo, perché parlate difficili, perché tutta questa intelligenza di sinistra fa discorsi di micchia, si rivolge a un pubblico di micchia, in reti televisive di micchia. E quindi dalla micchia, con le parole di micchia e la sinistra di micchia, si arrivò Giovanni Mario, ve lo ricordate? Si arrivò a un partito di micchia, di centro e anche di destra. Allora facciamo sentire tutti i tutto qui, hanno fatto vedere una mia immagine che mentre parlavo alla stampa estera lì, mamma mia com'ero solo dietro quella scrivania. Aia. Era solo perché era in una scrivania di micchia. E quindi da micchia in micchia, questi che cosa fecero? Fecero l'NCD, che fu una vera e propria casetta. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro. Ecco, una casa senza re e senza regno, è il caso di dire. Nunzia De Girolamo se n'è andata, è tornata in Forza Italia. Gaetano Quagliariello, o Quagliarello, che dir si dica, è già in partenza. E così Formigoni, Maurizio Lupi, Carlo Giovanardi, fuori anche loro. La nostra Beatrice Lorenzin, ministro, va verso il PD. E Fabrizio Cicchitto, allora, testa pensante, dico tanto centro e dico tanta destra, per non sapere né leggere né scrivere, che fa? Scioglie direttamente NCD e Alfano se ne resta tutto solo. Per cui l'unico dialogo che sono riuscito a catturare è questo. Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene. E l'ultimo chiuda la porta. È meraviglioso. L'ultimo chiuda la porta, non è male. Senti, Mario, ancora una bolla velocissima. Sì, vai. Vai. Bellissimo pezzo di Crowded House, è una notizia di micchia, mi verrebbe da dire, ma in realtà è una notizia importante. Sono tempi duri per chi fa trading nelle banche americane. Dopo i dati cattivi di Goldman Sachs e di JP Morgan, sono arrivati quelli di Morgan Stanley, un'altra firma prestigiosa della finanza americana, e fa meno 40%. Meno 40%? Oh yes. È cambiato il clima. Sì. Beh, non ci sono più i profitti da trading sul quale loro facevano, no? la speculazione, certo. I guadagni. Quindi 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Il punto è: una parte degli italiani negli ultimi anni se n'è andata dall'Italia. Io dico, se un ragazzo vuole andare a inseguire il proprio sogno lontano dall'Italia, bene, però vorrei creare un clima per cui se la sente di tornare, trova un paese dinamico, vivo. Penso che per i prossimi 10 anni tornerò in vacanza d'estate, devo essere sincera. Mi piacerebbe tornare, un sacco. Però vorrei vedere che c'è la possibilità di cambiare. Per quello che ho visto finora non c'è. Pagare le spese, bastava un diploma, non fare la starolicona. Noi metteremo in legge di stabilità una misura ad hoc per portare, non soltanto da fuori Italia, ma anche italiani, 500 professori universitari per attrarre i cervelli. I 500 più bravi vorrei che potessero scegliere l'Italia. Io qua sono stipendiato dal Ministero della Difesa inglese. In Italia non prendevo un soldo. Qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Paola Catapano, responsabile della comunicazione del CERN di Ginevra. Ecco, lei perché ha abbandonato l'Italia? Perché l'Italia mi stava molto stretta, già dall'età di 14 anni sentivo che non era un paese giusto, non vedevo meritocrazia, chiaramente a 14 anni non conoscevo neanche questa parola, però il feeling c'era. E quindi appena ho potuto sono scappata, anzi ho proprio orientato i miei studi inizialmente sulla scuola interpreti le lingue, proprio perché per me era uno strumento per andare via. Certo, e al CERN lavorano tanti italiani, lì dove sta lei? Al CERN sì, la maggior parte degli utilizzatori, cioè degli scienziati pagati da fuori, dalle loro istituti che vengono a fare le loro ricerche qua, sono, la maggior parte sono italiani, anche se molti sotto mentite spoglie, perché hanno contratti con università americane, ma sono italiani. D'altra parte il CERN è proprio un posto che è nato per arrestare la fuga di cervelli nell'immediato dopoguerra. Tutti gli scienziati, tutti i fisici erano partiti negli Stati Uniti, e quindi il CERN era un modo per riattrarli in Europa e riacquisire una leadership nella fisica che era sempre stata europea fin dai tempi di Fermi. Anche Antonio Meucci era un cervello in fuga. Meucci, il geniale inventore del telefono, vittima del più clamoroso scippo scientifico del XIX secolo. Mi resi subito conto che non valeva la pena finanziare gli esperimenti del signor Meucci e lo riferì puntualmente al signor Grant. Gli dissi che le sue invenzioni erano farneticazioni. Farneticazioni? Pure semplici farneticazioni. E perché te le siete tenute un anno le mie farneticazioni? Perché Meucci ha avuto giustizia solo 100 anni dopo la sua morte? Bell era uno scienziato o un impostore? Genialità, intrighi, misteri nel giallo della storia di oggi, qui a Mix 24, dopo il giornale radio. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Mix 24. Il canzoniere. Tra gli dei evocati dagli uomini, il più generoso è quello che, allacciando tutte le solitudini, ne fa un giorno lieto. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Mario, ancora una bolla in attesa. Sì, di facciamo parlare Gecko, ma serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. E se vuoi un amico, prendi un cane. Allora, mamma, se vuoi un amico, mia, prendi un cane. Vabbè, tempi buoni per la Boeing, che costruirà il nuovo Air Force One sul, diciamo, progetto del 747-800 che è già in produzione. Costerà 3 miliardi di dollari. 3 miliardi di dollari? Sì, sì, sì, pronto nel 2023. Tutti si lamentano del piccolo aereo di Renzi. Questa, insomma, è una cosa un po' più grossa. Più significativa. Resiste allo shock elettromagnetico, ai sistemi antimissile. Beh, insomma, tutti gli aggeggini, no, che servono a un capo di Stato. Il frigo bar c'è? Sì, sì, c'è, certo, bar. C'è anche il frigo. Dai, bar. Cosa canzoniere, vuoi? Abbiamo in linea qualcuno, non voglio credere che c'è qualcuno che ha vinto. Amelia? Buongiorno. Amelia. Buongiorno. Sì. Amelia. Buongiorno. Allora, provi a dirci, è la prima che, no, che vince, non lo so, che dice... Il professore mi perdonerà perché non mi ricordo l'opera, però era Callistrato. L'autore. Callistrato, giusto. Il famoso Amelia. Callistrato, che io mi sono svegliato stamattina e ho detto: mannaggia, non ho letto Callistrato. Ma dai, è classico greco. Certo, e figuriamoci. Ma fantastico. Da dove telefona? Ragusa. Ragusa. Parente, amica. No, beh, per carità, la Sicilia è più colta, lo sappiamo. È colta, grazie. Certo, perché Costa Italia di Piritolli non si usa più il Rocci. Vabbè, ma Callistrato lo sanno tutti. Insomma, adesso col professor Roberto Bernabei, come al solito, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste più importanti del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA, 22 settembre 2015. Sciroppo per la tosse per i malati di Alzheimer. Veramente, professore? Ma come sapete, la malattia di Alzheimer, che è una delle grandi sciagure dell'invecchiamento, ha una caratterizzazione, soprattutto nelle fasi avanzate, per cui i malati di Alzheimer diventano agitati, aggressivi, e questo è una delle cose più preoccupanti, perché è una persona che completamente cambia di fronte a voi, ma non solo perché non è più in contatto con il mondo, ma perché diventa cattiva, dice parolacce, si agita, ed è uno dei problemi certamente nella gestione più complicati. Fino ad oggi non c'erano farmaci se non i cosiddetti antipsicotici atipici, sono nomi antipatici, risperidone, olanzapina, aripiprazolo, vedete, sono addirittura difficili da dire. ma questi erano una specie di martellata in testa, un modo per sedare definitivamente questi pazienti. E qualcun altro provava con la musicoterapia o la ludoterapia a farli giocare, figuriamoci quanto queste cose possono essere efficaci. Beh, la novità è che c'è un vecchio farmaco usato da sempre per la tosse, il destrometamorfano, che è stato approvato, e lo studio di JAMA lo conferma, dagli enti regolatori, sia quello americano, la mitica FDA, che così come l'EMA, che è l'ente regolatore invece europeo, che ha dimostrato che riduce in modo nettamente significativo, rispetto al placebo, gli episodi di agitazione, di disturbo, di violenza dei malati di Alzheimer. Naturalmente questo ci fa pensare che si apre una piccola finestra, sapendo che purtroppo per curare la malattia ancora ad oggi non abbiamo nessuna risorsa. Qualcuno dice che arriveremo tutti a 90-100 anni, ma a metà saremo dementi. Professore, lo sciroppo contro l'Alzheimer? Lo sciroppo contro un pezzo dell'Alzheimer, un pezzo sintomatico dei sintomi che ha la malattia di Alzheimer, perché come ho detto un farmaco che curi l'Alzheimer, che faccia tornare indietro il deficit cognitivo, non ce l'abbiamo. E per chiudere finalmente Gino Paoli con un uomo vivo. Io non sapevo per cosa vivere. Sapevo a che cosa serve.